brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Mi stavo domandando questa mattina quali mai fossero i luoghi dell'esotico nella percezione nazionale. Cosa si intende per esotico? Si intende qualcosa di totalmente diverso, totalmente altro. Una realtà territoriale che sia antitetica rispetto a quella quotidiana. Beh, negli anni, nei tempi, nei secoli, gli italiani hanno sempre vissuto visioni molto particolari e diverse dell'esotismo. L'esotico in un'epoca romantico-simbolista, rappresentato appunto da una sorta di oriente satrapico e misterioso. Poi andando avanti l'esotico è stato rappresentato dalle nostre auguste colonie. Esotico era tutto ciò che noi conquistavamo, era l'impero che si allargava, erano le faccette nere, erano i guerrieri da combattere, erano i territori da conquistare. Poi andando avanti vediamo un po' di classificare qual è stato l'esotico. Beh, diciamo nel primo dopoguerra esotico era il mito che veniva appunto dagli Stati Uniti, la grande mamma che ci ridava la mammella e ci ridava vita. Quindi, non so, vi faccio un esempio per tutti, l'americano a Roma di Alberto Sordi, che rappresentava questo mondo diverso, pieno di frastagliate fantasie rispetto alla monocromia degli anni che avevano preceduto appunto gli anni del boom. Tutto ciò che prima era grigio, era nero, era passo dell'oca, poi rappresentato era dalla musica jazz, dai colori, da tutto ciò che sembrava un sinonimo di libertà. Poi andando avanti ancora negli anni sono cominciati a sorgere altri tipi di paradiso. I paradisi legati a un ritorno di spiritualità molto anche questa contaminata, legata all'Oriente. Cominciavano appunto i viaggi verso l'India, i viaggi verso il Nepal, sempre legati a una sorta di ricerca di luoghi incontaminati, di filosofie che astressero l'essere umano dalle mestizie della vita, ma allo stesso tempo anche di fantastici cannoni che permettessero di accelerare questa uscita dal mondo. Andiamo avanti ancora, abbiamo i grigi anni di piombo, in cui andare in luoghi esotici significava andare nei luoghi dove era rappresentato concretamente il miracolo del socialismo reale. Allora si partiva, andavano in Cina, andavano a Cuba, andavano nei paesi dell'est, andavano per quanto era possibile occhieggiare a vedere quello che succedeva in Albania e tornavano rinfrancati. Molti di questi viaggi aziendali verso i paesi dell'est erano corroborati da grandi valigioni di collan, di penne biro, di rossetti, di cipri e belletti comprati ai supermercati, perché una delle caratteristiche dei luoghi paradisiaci che si andavano a visitare era quello di avere un banalissimo e se vogliamo schifoso mercimonio di grazie muliebri in cambio di prodotti del consumismo che si andava a rinnegare in quel viaggio. Andiamo avanti ancora. Poi siamo arrivati all'epoca burina. Il trionfo del pensiero burino ha trasformato le agenzie di viaggi in procacciatori di paradisi esotici a portata di tutti. E quindi cominciano i viaggi di nozze a Sharm el-Sheikh, e cominciano i viaggi nelle Filippine, nei paradisi, nelle isole, negli atolli, nei luoghi dove si va per rimpiangere poi nella propria vasca da bagno quelle crociere meravigliose, quei 10 giorni di botta di vita che mai si avranno più. Andiamo ancora ai tempi che stiamo vivendo, ai tempi correnti. Cosa c'è oggi di esotismo, quando l'esotico ormai è a casa nostra? Quando il profumo del kebab ha, ma non lo dico con rimpianto, non lo dico con rammarico, lo dico con grande curiosità, ha coperto e si è sovrapposto al profumo della schiacciata con le cipolle. Oggi l'esotico lo stiamo vivendo, siamo in un grande souk, in un meraviglioso, fantastico souk. Eppure ancora permane probabilmente nella fantasia degli italiani l'idea che possano esistere luoghi incontaminati, luoghi misteriosi, luoghi caricati di suggestioni che non potremmo cogliere alle latitudini in cui ci produciamo ogni giorno nella nostra vita corrente. Beh, questa mattina con il grande Sanson che è qui accanto a me, ciao Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Cercheremo di vedere come il nostro grande indicatore di civilizzazione, che è il cinema di genere, la commedia, il film italiano, ha raccontato via via negli ultimi decenni quelli che erano i nostri sogni di esotismo. Ricordo tutte le sue creature, la contessina Lucilla, Felga la zingara, Raniero l'avventuriero, ma più di tutti lo sceicco bianco. Che sublime Fernando Rivoli, che espressioni che ha. E così, cara, 3 lettere da Rivoli. E sei venuta a trovarlo? Oh, sì. Piccina, puoi dirti fortunata, poiché verrà qui a momenti. Ma ora è tardi, troppo tardi. Io volevo soltanto... Permette, cosa sono, delle fotografie? Eccoci qua, siamo negli anni che abbiamo accennato nella nostra carrellata iniziale, gli anni del dopoguerra, quando il mito di Hollywood, che ancora non è capace di ricostruire quello che è stato il mito di Cinecittà, almeno alle nostre latitudini, conia, forma, genera questa forma di ibrido tra romanzo scritto e cinema, il vorrei ma non posso del cinema, che è la creazione del fotoromanzo. Gli italiani, non potendo fare cinema ancora in maniera seria, e ancora oggi hanno qualche difficoltà in questo tipo di attività, devo dire che si inventano il cinema stampato sui giornali, nasce il fotoromanzo. Gli eroi del fotoromanzo poi diverranno i grandi miti della stagione più felice del nostro cinema, rappresentano nella protagonista dello sceicco bianco questa figura mitologica, mitica, presa appunto da una specie di Rodolfo Valentino interpretato da Alberto Sordi. Tu che di Rodolfo Valentino stai montando il tuo film, e forse puoi dirci qualcosa. Sì, questo è lo sceicco bianco, è l'invasamento di Fellini per Rodolfo Valentino, per questa figura mitica che appunto in America aveva creato a Hollywood tutta questa serie di archetipi. Qui viene rivisitata in maniera pecoreccio, in maniera sublimemente pecoreccio, da Alberto Sordi, e questo mito. Ricordiamo che siamo sempre il paese di Salgari, ovvero di un mondo di scimitarre, di sceicchi, di tende, di lotte coi cammelli. Cioè di paradisi esotici conosciuti, descritti, raccontati e mai visitati concretamente. Questa è la nostra caratteristica. Intabarrati come Salgari nel nostro studiolo, così fra le nostre pennine, nelle nostre carte, le nostre sudate carte, a immaginare un mari procellosi che non solcheremo mai, perché Salgari aveva il mal di mare ogni volta che si è fatto l'istituto nautico, non l'ha finito perché non riusciva a stare in mare, però l'ha creato tutto nel suo studiolo. Qui l'ispirazione appunto a Rodolfo Valentino è creata da questo Sordi roboante che cerca di circuire, ma poi tutto finirà, franerà nella farsa, come costume di Sordi e di Fellini. E quindi il sogno di questa sposina che arriva con Leopoldo Trieste a Roma per conoscere il suo mito naufragherà e tornerà mestamente alla vita coniugale. Come tutti gli sceicchi dei sogni delle povere sposine, era un cialtrone terrificante, era un grande pappone nell'animo e un misero padre di famiglia, misero perché miserrima era la sua maniera per nascondere la sua condizione di stato civile. Sposato con un prototipo di Aveninchi, una virago gigantesca e terribile che lo trascinerà alla sua quotidianità, poi a questa trippa che esce dalle gilet ricamato da sceicco Sordi, e questa voce da filodrammatica molto calcata, molto roboante, molto con cui cerca di sedurre su questo veliero, su questa piccola barchetta che è simulata a veliero. Allora, 800240024, esiste ancora per voi l'idea di paradiso esotico? Dove lo andate a cercare? Dove lo individuate? E come lo percepite nei gusti cafoni delle persone che vi circondano? Questo è il momento dello sfogliare delle locandine delle agenzie di viaggio. Dove andrete voi? In quale isola? In quale chaiselon piazzata sulla spiaggia con il mare color cobalto davanti a voi, con il long drink in mano, con l'ombrellone, con gli animatori, con la musica, con il percorso di salute o la zona benessere? Oggi anche una pensioncina ha una stella e mezzo al suo centro benessere, ti porta in una specie di gabinetto pieno di fumo, con delle mattonelle zozze, con dei sassi caldi per terra, ti danno un accappatoio e dice: fai il percorso nel centro benessere. Senti, Benedetti, io sono un uomo altamente civilizzato e se ho voglia di un pesce, io prendo questo e catturo pesce e lo mangio. Chiaro? Questa esca per pesci? Ho capito, ti devo spiegare tutto. Al mio paese ognuno di noi sa fare una cosa. Io, per esempio, so fare questo. Vestito, confezioni. Io faccio questo, straccio. Qui c'è un uomo che sa fare macumboa. Che cosa faccio io? Io esca? Io esca, ma non tengo esca a casa, ma prudente, metto esca in una casa lontana, molto lontana, che chiamo banca. Voglio una cumboa? Esco di casa mia, vado banca, prendo esca, vado da uomo di una cumboa, gli do esca e lui mi dà una cumboa a me. E lui cosa fare con esca? Lui, quello che vuole. Qua dove siamo, Giuseppe? Qua è il mito di Robinson che viene rinverdito da un Paolo Villaggio. Dalla coppia Corbucci-Villaggio, qui al dispetto di Tom Hanks, del castaway di Tom Hanks, c'è un villaggio barbuto. E qui spiega a Zeude Araya, che questa meravigliosa indigena, appunto il sogno erotico che si condensa in Zeude Araya, su quest'isola deserta su cui lui dalla civiltà piomba, finisce come da cliché. E il suo contatto con Zeude Araya lo induce a spiegare il baratto, e quindi la fatica, cioè il capitalismo, con lei che invece gli propone il baratto, quindi la fatica tortuosa del capitalismo rispetto alla semplicità nuda e semplice del baratto. Qui possiamo fare altre citazioni filologiche e individuare altri sottogeneri. Nel mito del buon selvaggio, in cui si è consumata un paccone letteratura e rivisitato alle nostre latitudini, il buon venerdì diventa sempre Zeude Araya o tutte queste signorine appariscenti e ben dotate di pelle scura che avevano dato vigore a una sorta di filone intermedio, poco conosciuto ma molto maledetto, quello dei film dedicati ai mondi paralleli, l'altro mondo, mondo cane, via dicendo. Qua c'è qualche similitudine. Sì, c'è un film anche di Zeude Araya, Il Corpo, dove, girato a Trinidad, dove Enrico Maria Salerno pare che non riuscisse più a tornare da Trinidad perché era avvolto da queste bellezze mudiebre. Anche dopo il film era rimasto lui noto erotomane. Il Dio Serpente, ti ricordi? Sì. Col sax di Fausto Papetti. Sì. Quindi tutto ciò, dal night italiano si trasferiva nelle isole esotiche, perché è sempre un cielo dipinto, quello da man spettacolo, quello da night, che è l'esotismo italiano. Cioè Salgari passa attraverso i cieli dipinti sul legno. Gli italiani sono sempre stati grandi importatori di paradisi carnali, a cominciare dalle faccette nere, dalle abissine, andando avanti poi dalle cubane che hanno distrutto chissà quante famiglie, oggi le ragazze dell'est. C'è sempre qualche coatto che torna con la cubana in mano, però dice: mi sono innamorato, e questa dopo una settimana si fidanza col suo migliore amico. Esatto, ma è sempre qualcosa di greve, cioè sempre questo colonialismo, questi cappelli, un po' da vignette della settimana enigmistica, un po' come Italo Cucci, che adesso che sta facendo dal Sudafrica i collegamenti mondiali, c'è questo bongo, no? Questo balanzone che ha questo bongo davanti, che dovrebbe esoticheggiare, africaneggiare i collegamenti col calcio, cioè che invece risulta patetico. Sì, i giornalisti italiani hanno questa caratteristica, quando stanno in terre legate appunto ai territori bellici del Medio Oriente, si mettono grandi sciarpe e grandi cappelli in testa, grandi fusciacche, grandi bandane, via dicendo. Quando vanno invece in Africa o in territori del genere, si vestono chissà perché da il loro nonno in divisa coloniale, non hanno mai una via di mezzo. Pronti per essere calati nei pentoloni dei cannibali, insomma. Poi c'è la canzone straordinaria di Elio e Storie Tese, basta con questi bonghi, non siamo mica in Africa, contro i bonghi, no? Contro l'uso ossessivo e maniacale dei bonghi senza ritmo, no? Quindi straordinario. Cristina, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Vediamo se riesce a darci un'idea dei paradisi esotici che abbiamo noi burinisticamente lambito. Ma secondo me viaggiare ormai è diventata una farsa, è diventato un obbligo sociale. Guardi, lei la riconosco, lei è da avventure nel mondo, dica la verità. E io ho viaggiato finché ero sposata, perché mio marito era ed è tuttora un grande viaggiatore, però ho sempre trovato qualsiasi viaggio che ho fatto una cosa squallida. Beh, perché ci andava con suo marito, forse. Forse era la compagnia che mi mancava. Provi a viaggiare da sola. No, io mi sembrava di essere una delle tante, mentre adesso che da 3 anni non viaggio più, mi sento più importante, mi sento me stessa, mi sento in pace con i miei libri, con la mia radio, con lei. Vabbè, guardi, è una visione mummificata da pensionata, però faccia come vuole, non lo so. Io le augurerei di muoversi un pochino, perché anch'io fra un po' vado in vacanza, i libri, vabbè, ma si può portare anche dietro. Sì, ma l'ho fatto per tanto tempo e l'ho trovato molto inutile. Vabbè, è un'illusione comunque il viaggio, però a questo punto vale la pena di farlo in ogni caso. È un'illusione, ma voi uomini probabilmente secondo me mi sono fatta l'idea che avete più entusiasmo, più curiosità e quindi il viaggio vi è più... vi viene meglio, ecco. Io nella mia concretezza, nei miei piedi per terra, rinuncio, perché tanto ogni, guardi, io ogni posto ho visto ogni mondo e paese. Bravo. Vabbè, a me dispiace sempre queste visioni rinunciatarie dell'esistenza. Le rispetto, ognuno è libero di attaccarsi alla trave che vuole. Non ho rinunciato, ho scelto comunque, Ho sì, scelto sì. Perché avendo fatto potevo fare e invece scelgo di fermarmi. Io, se mi consente, noi, siccome il tema della trasmissione sono i paradisi esotici, sono i luoghi che noi sogniamo, che non è detto che esistano, non è nemmeno detto che noi riusciremo mai nella vita a lambirli nemmeno. Però è bello avere nel cuore un luogo esotico che ci piacerebbe vedere. Per tanti anni per me è stato il Messico. Avevo studiato tutto sul Messico. Poi ci andai, rimasi talmente deluso e soffocato da un'aria irrespirabile, da gente che non era come pensavo io. E quindi mi sono richiuso nel bere tutte le sere margarita pensando che il Messico sia quello. Tu ti ricordi Wiman, controcorrente, lui che deve partire da, il protagonista deve andare da Parigi in Inghilterra e si intabarra in questo pub inglese e alla fine non parte più, circondato da cliché d'Inghilterra, se ne appaga e non parte più. Sì, ma la visione della signora è un po' la visione dei basilischi, che dicono ma dove vai, che vai a fare a Roma, rimani nel barretto lungo la strada polverosa del paese della Basilicata e lì non ci si muove più. Ed eccoci qui a Monte Carlo per il Gran Prix di Monte Carlo. C'è Clay Regazzoni, Fittipaldi. Passiamo ora sotto le tribune, salutiamo al principe Ranieri, molto invecchiato, un autentico crollo. C'è anche Elsa Martinelli, la solita ira. Qui un altro paradosso, Giuseppe, sì. Dell'italiano viaggiatore nei luoghi esotici, che poi quando raggiunge il luogo dell'esotismo, il luogo dell'altrove, il luogo della dimensione parallela che ha sempre cercato, ricostruisce fittiziamente ciò che gli mancava. Da andare a cercare il ristorante che fa gli spaghetti a come fa adesso Villaggio, a costruirsi un'automobilina di bambù e fingere di stare al Gran Premio. Questa è la perla del film, perché c'è lui con questa appunto auto di bambù alla Flintstone col barbone lungo, che ricostruisce il mondo, il traffico, la mondanità, il Gran Premio, gli oggetti di design che è intorno, che già negli anni 70 popolavano la sua vita di benestante nel film. Poi ci sarà la scena del cinema meravigliosa, un colpo alla Buster Keaton, con questo telo di, cioè questo quadrato di bambù che anche stasera danno mare, il mare, cioè sempre lo stesso spettacolo, cioè che il mare riquadrato nel bambù, quindi tutti i cliché della propria modernità riproposti perché ci si annoia, non ci si riesce a vivere questo vuoto che è l'esistenza. Ecco, 800240024, quello che mi aspetto da voi che ci ascoltate questa mattina è che mi deste, se ci riuscite, indicazioni di quello che oggi è il paradiso artificiale, il luogo esotico per eccellenza, quello più lambito dell'immaginario comune. A me sfugge, non so, forse la Svezia, forse in questo momento vanno molto i paesi nordici per una serie di romanzi, per una serie di film, per una serie di vampiresche rappresentazioni per adolescenti, ma forse potrebbe essere anche altro. 800240024. È lui! Abanga Ubaba Lianga Inenea Kinino Adanga Usubu Kuyuka Didi Pan Adanga Kuyuku Karomba Didi Safaust Mare Aridanga Romba Goyota Didi Soeva. Ma che dico? Qui è un altro esempio, un altro stereotipo, l'italiano che si adatta, che si trasforma, che si fonde nelle ritualità, nei modi d'essere, che dimentica le sue radici e diventa qualcos'altro. Sì, questo è, riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa di scuola. Cioè questo è diventato un tormentone nell'immaginario italiano, anche nel linguaggio, che riprende appunto dall'appendice di Salgari. Cioè riusciranno i nostri eroi con la sospensione dei racconti vari che poi proseguiva nel numero successivo. Qui c'è un Conrad alla matriciana, cioè al posto di Kurz c'è Manfredi che viene inseguito dal cognato, che non sembra Defoe ma è ma è Sordi che insieme al Fido Bernard Blier lo vanno a trovare in Africa per andare a riportarlo alla civiltà, ma non riusciranno nell'impresa. E c'è, è strepitosa la scena in cui Blier, che fa il ragioniere, il servo di Sordi, davanti allo splendore delle cascate africane si mette a controllare delle cambiali, cioè, quindi c'è sempre l'improbabile dell'avventura italiana, l'inconsistenza in non riuscire a... Quindi due atteggiamenti: l'occhio fantasioso, quasi lisergico, che vede l'altrove anche dove non ci sia, nella propria cameretta, nello squallore del proprio cortile, ci sono i paradisi esotici alla Salgari, e l'italiano che ovunque sia vede sempre se stesso, guarda il suo ombelico. Stefano, buongiorno. Stefano? Pronto? Eccolo. Qui. Sì. Volevo sapere, dire altre molte altre cose, tutto psicologicamente, siamo un po' presi da questa maniera dell'esotismo. Per esempio, quando mo parlava all'inizio della trasmissione di quelli che alla ricerca del misticismo andavano in quelle zone dell'Oriente e via dicendo, quando tutti quell'Himalaya, queste zone del Nepal, oppure molti che si sono convertiti in altre religioni, chi al muslim, chi si è fatto Hare Krishna e via dicendo. Allora io questo pensavo, perché tutti quanti sono magari il fatto dello sconosciuto, cioè non diciamo che magari attira in particolar modo. Quando per esempio se vuoi vedere, se uno si vuole approfondire nello spirito, queste ricerche dello spirito, basta che va stessi in Italia, su tantissimi luoghi in Italia, andare a Gubbio o altri santuari che sono. Sì, c'è la corsa dei ceri, il tiro della balestra, c'è il calendario di Maggio Assisi, c'è la sagra della porchetta Norcia, è pieno di posti che fanno alzare, elevare lo spirito. Ma quello che noi cerchiamo di capire stamattina è individuare un luogo assoluto che rappresenti l'altrove, che è una ricerca lecita, uno può essere anche spiritualmente appagato, aver desiderio, fantasia. A me piacerebbe di avere tanti posti, mi piacerebbe stare con alcune persone, non con tutte le persone al mondo, alcune persone piacerebbe portarle in certi posti che non ho mai visto, mi piacerebbe vederle assieme a loro, oppure magari sono dei posti che ho visto e mi piacerebbe rivedere, o magari non farò mai nulla per andare a vedere, ma mi illuminano la giornata quando faccio sempre lo stesso percorso ogni giorno. Anche sognare in fondo è un'attività lecita e non fa male a nessuno. Melog 2.0. Tomorrow a levar del sole si va a stanare il vecchio Simba. Come nei racconti di Hemingway, vidi i suoi occhi lampeggiare metallicamente e le sue labbra serrarsi con sdegno. Allora le confessai anche di essere nato e vissuto Salla, provincia di Genova. Ah, davvero? Non sei del Galles, dunque? No, glielo confesso. E mi lasci perdere, eh? Chiaro? Ma sentì una strana desinenza non hemingwayana che finiva in ulo. Ma davvero professional, mi limitai a risponderle. Grazie, eh? 800240024, stiamo sondando il concetto di paradiso esotico, come è mutato negli anni nella nostra percezione italica. Cosa consideriamo al centro di tutte le nostre fantasie di deambulazione, di transumanza? Dove vorremmo andare? Magari non ci andremo mai. Ma cosa consideriamo oggi all'apice, ad esempio, delle fantasie comuni, collettive? Cosa la gente immagina che sia? E quale immagina che sia il luogo eccelso in cui uno sente veramente lontano dal mondo, ma allo stesso tempo vicinissimo ai desideri collettivi? Un luogo esotico è ancor più desiderabile quando coincide con il desiderio di esotismo di tutte le persone che ci circondano. 800240024. Paolo Villaggio, che fa il cacciatore bianco, che porta le signore a fare i safari tarocchi, anche quello del safari in Kenya, un altro divertimento. Sì. Una volta mi raccontarono degli italiani che andavano di notte con le jeep a dare le botte agli ippopotami, un altro divertimento che facevano per dare senso in maniera meno cruenta al loro desiderio di essere cacciatori bianchi. A te cosa ricorda il safari di Fantozzi? A me ricorda lo zoo safari di Fasano, perché io sono pugliese. Della selva di Fasano. La selva di Fasano, in piena Puglia. Cioè, fra trulli, ulivi e terra rossa di ferro c'è sorge questo zoo safari pieno di leoni devastati dall'alopecia, sfibrati, stanchi, cioè scimpanzé impazziti di noia. Era l'ospizio dei leoni, praticamente. Però è il clou dello zoo safari di Fasano. Negli anni 80, soprattutto, in cui c'era una certa libertà, ci si poteva entrare anche con la macchina, poi hanno messo solo il trenino di ferro, si poteva entrare nell'areopago dei babuini, animali ferocissimi con occhi a fessure, 400 babuini, sembrava proprio il senato romano però di babuini. E mio padre, cioè, la macchina stipata, la 145 Sting beige, stipata di parenti, cioè, dai ragazzi andiamo a vedere i babuini, cioè, appena entriamo c'era, a parte che c'era la scena madre. Beige in quanto mimetica. Sì, dopo poi diventate di un altro colore, però i babbuini ci fissano tutti con questi occhi a fessura, come sai, alla controra siciliana, ci guardano, cioè, a parte che c'erano tutte le scene madri, c'era il babbuino morto sdraiato in un angolo, due babbuini in piena copula, quindi c'era tutto, c'erano bambini, insomma, c'era tutto quello che c'era da vedere sulla vita proprio. In pochi secondi si avventano 40 babbuini sopra noi, siamo coperti di pelle rosata di babbuini. È il ciclo della vita, come nel Re Leone. Esatto, la macchina è colata di urina ed escrementi vari di babbuini, c'è un autolavaggio al contrario. Tuo padre col tergio cristallo. No, mio padre è fermo, immobile, fingendo disinvoltura, un babbuino gigantesco mette le natiche di fronte a mio padre e si accanisce sullo specchietto, fa lo sradica, poi si specchia, guarda l'infinito dentro lo specchietto dell'orizzonte, lo scaglia come Kubrick oltre l'areopago e poi usciamo senza panali, senza nulla. Cioè, vi siete divertiti, ragazzi? Beh, sì, ci siamo divertiti. Una bella avventura. Sentiamo Alessandro se avventure altrettanto esotiche. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a lei e complimenti per la trasmissione. No, vi prego. Poi mi costringete a fare questa cosa fighetta e dire non voglio complimenti. Non lo dite. Devo farle. Niente, io mi sono creato uno stereotipo grazie a dei racconti. I miei nonni andavano sempre in queste isole che sono le Canarie. Uh-huh. Da quando sono piccolo, quando tornavano, andavano lì tutto l'inverno, tornavano dopo questo lunghissimo inverno, perché quando sei piccolo l'inverno è molto più lungo di qui quante ore. Tornavano e mi raccontavano le loro esperienze, come erano le onde in mezzo all'oceano, vicino all'Africa. Allora, quando sono diventato un po' più grande, sono potuto partire. È andato alle Canarie. E andare a visitarlo. E poi in realtà non corrispondeva esattamente alla visione ovviamente che mi ero creato, però tuttora oggi, io vado 2-3 volte all'anno in queste isole, tuttora quando arrivo me le vivo come se fosse ancora bambino, cioè come me le immaginavo, cioè io vedo un banano che è uno, e mi immagino di essere in queste isole in mezzo all'oceano con le banane un po' alla fantozionamento. Quindi lei, diciamo, ha possibilità di frequentare il suo sogno esotico più volte all'anno, quindi ci vale, non è di quelli che si limitano a descriverlo, a immaginarlo, a raccontarlo. No, me lo vivo. È come se fosse una seconda casa. Esatto. Va bene. Stefania, buongiorno. Buongiorno. Lei dove va invece? No, sono andata. Sono andata nel sud dell'India, nel Kerala, che diciamo di tutti i posti che ho visto, che non sono tantissimi, ma insomma alcuni ne ho visto, e sono d'accordo con lei sul Messico, delusione, la cosa più esotica del Messico anche per me sono stati i cocktail. Comunque, insomma, questo me li faccio benissimo dal mio freezer. No, me li faccio dal mio freezer. No, mi dispiace perché è una terra massacrata. Nel Messico è stato un luogo sistematicamente massacrato nei secoli, e quindi purtroppo è un sovrapporsi di stratificarsi di vestigia una sull'altra. E l'ultima, ahimè, una grande cappa di inquinamento e una grande orda di burini italiani che vanno in viaggi di nozze a vedere le piramidi. Quindi non c'è di peggio. Ecco, pienamente d'accordo. Invece mi è molto piaciuto il Kerala, dove sono stata alcuni anni fa, e ricordo in particolare un luogo, un promontorio coperto di palme, dove la struttura, diciamo, alberghiera non si notava perché era molto ridotta, molti bungalow nascosti appunto nella vegetazione, le strutture in muratura erano proprio minimali. E poi questo promontorio dava su una spiaggia sconfinata della quale non si vedeva l'orizzonte, anche questa poi alle spalle aveva tutta una giungla di palme, banane, eccetera. Su questa spiaggia c'erano dei pescatori che pescavano ancora con i loro metodi antichi, e in questa struttura si potevano fare... Altrimenti voi che cosa avreste visto se non ci fossero stati pescatori con i metodi antichi? Immagino che sia stato uno spettacolino anche a beneficio dei turisti, quello di pescare con i metodi antichi. Come uno va... Sì. Fatto sta, insomma, che questo si vedeva, ecco, può darsi... E come i gladiatori davanti al Colosseo per ecco, i giapponesi. Diciamo, non c'era la folla dei turisti, cioè questa spiaggia era completamente vuota per chilometri e c'era solo questa struttura dove si praticavano le cure ayurvediche, si praticano ancora. Cioè vi facciate spalmare di olio e massaggiare ovunque. Sì, bellissimo, dunque 2 ore di massaggi al giorno con questi oli e queste terapiste che diciamo ti fanno le cure come se adempissero a una missione, cioè loro recitano una preghierina prima di mettersi a fare i massaggi e lo fanno con amore, mentre se lei va in una spa qua in Italia molto spesso l'amore manca. Beh, Dio, è un altro tipo di amore, vedo che ogni tanto fa qualche retata, ci sono avvocati, professionisti. Sì, ecco, diciamo quello. Però diciamo ognuno ha la sua lettura, però mi fa piacere, lei ha dato un quadro completo di quello che... No, manca una cosa, ah, sì. Il rombo dell'oceano, che era veramente impressionante, di notte soprattutto mentre uno dormiva si sentiva questo rombo dell'oceano, veramente affascinante. E pensavo il rombo il pesce dell'oceano, invece era lei non fa le battute, sta rompendo la poesia di Stefania. Stefania è una viaggiatrice di livello alto, perché gli stessi luoghi venivano attraversati da frotte di italiani impegnati in vacanze massacro, andavano con l'autostop, zero soldi in tasca, vestiti anche loro di stracci di fibra naturale, e andavano alla ricerca chissà di iniziazioni o di bei mallopponi di fumo da portarsi in giro per il loro viaggio. Certo, poi mi fa riflettere anche su un'altra cosa, che c'è la messa in scena dell'esotico nella sì, c'era tutto, la signora devo dire se le bevute tutte, dal rombo dell'oceano ma alla massaggiatrice ayurvedica che fa la preghierina davanti e che fa l'olio, via dicendo. Avrei, mi sarebbe piaciuto sentire la versione di un altro viaggiatore, cosa vedeva in questa cosa. Melog 2.0. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Ecco Giuseppe Sansonna, questo è il quacervo più struggente del desiderio di altrove e della tristezza dell'oratorio dei Salesiani che attraversava appunto Celentano. Però la canzone di Paolo Conte. La canzone è molto bella, appunto rimanda a questo altrove che ci si costruisce nel proprio tinello, nel proprio... È sempre lo spettro di Salgari torna puntuale, stretto alle tempie dai debiti, chiuso a vergare centinaia di pagine di scritte, a scimitarre mondi lontani ed esotici che erano tutti evocati, forse più veri proprio perché evocati, proprio perché finti. Non è sempre un'illusione, però vale la pena forse di vivere l'illusione. Sentiamo Pietro. Sì, eccomi qui. Il luogo esotico, uno dei luoghi esotici che ho avuto l'opportunità di visitare è stato l'Alaska. Sono stato qualche anno fa in questo luogo mitologico per me, perché ho visto anche il film Into the Wild, dove c'è la storia di questo giovane che lascia un po' tutto alle spalle, dopo essersi laureato lascia tutto per partire per questo viaggio che lo porterà in queste terre di frontiera, no? È l'ultima frontiera americana. E devo dire che il luogo regge il confronto con quello che uno insomma si era immaginato. È un luogo dove le distanze, i luoghi sono infiniti, sconfinati. È possibile vedere la natura nel suo stato migliore, diciamo, no? Questi alci al mattino che girano indisturbati per le campagne appena vicino alle case. Una mattina abbiamo visto una lince proprio anche in quel caso, mentre attraversavamo queste strade lunghissime e sconfinate. Ecco, tutto questo per me è l'esotico, no? Soprattutto ma lei che riguarda la natura. Ma sì, ma questa ricerca all'esotico parte da un suo progetto. Era l'esotico che lei cullava in cuore da sempre? Ci è trovata, visto l'alce, le è piaciuto e quindi dice quello è il mio posto. Sì, esatto. No, diciamo che quando io per tradizione familiare siamo appassionati di fotografia, oh. E quando vedevo queste foto di questi boschi grandissimi a perdita d'occhio, desiderava attraversarli e l'ha fatto. Mi dava una sensazione assolutamente di pace e anche il desiderio di visitare quei luoghi che poi genera la sensazione delle Lei ha trovato forse il suo animale sciamanico nell'alce, quindi lì si identifica. Silvano. Pronto? Eccomi. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Senta, niente, io avevo un sogno, io lo vivo tutti gli anni, un sogno esotico. Guardi, penso che sia proprio il mio, se non ho capito male. Scusi? No, penso che corrisponda con il mio, lo dica. Ah sì? E niente, praticamente io ho il mio sogno esotico quando tutti gli altri vanno nei paesi esotici. Cioè io quando restare ad agosto in città. È una meraviglia, non lo dica a nessuno, però guardi. Io l'atto d'amore più profondo che sento che la mia famiglia fa nei miei confronti quando mi lascia qualche giorno solo ad agosto a Roma. Trovo che siano i momenti più belli dell'anno. Li ricordo poi, mi danno forza tutto l'anno. È una città meravigliosa quando non ci sono di mezzo né romani né i pullman di sacri turisti, quelli lì con la bandierina. È deserta, non ci sta nessuno, è una città caldissima, l'asfalto si fonde. Magari per me è un po' più difficile essere solo perché abito a Venezia, centro storico, quindi è già essere soli lì è un po' difficile, però soltanto l'idea del condominio vuoto, solo con me stesso, è il più grande sogno esotico che può. Tanto io non vado da nessuna parte, sto così bene là, che non aspetto altro che agosto per andare. Sì, io feci anni fa trasmissioni sulla creazione di un habitat ideale con acqua, con aria condizionata a palla, Margherita sempre a disposizione e nessuno. In questo caso sì. Va bene, ci siamo capiti. Un paradiso esotico può essere anche casa propria, se ci si trova in una fattispecie post-atomica fortunatissima in cui ci sono le persone attorno. Sì, due. Certo che per lui due donne sole cosa sono? Lui che è abituato con 40, 50... Anche 60. Anche 60. Ma essendo due donne sole, tu potrai occuparti di loro con maggiore impegno, vero? Certo, farò del mio meglio, Don Pasquale. Grazie, grazie. Prego. E io per dimostrarti la mia riconoscenza ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al mese? Sì. Sempre alloggio, vitto, lavoro, impiegatura e stiratura. D'accordo. D'accordo. Sentite, bravo giovane, io sono un amico di Pasquale. Ah, molto piacere. E se venite con me, vi do 150 lire al mese. Oui. Ma questa non è una cosa da galantuomini. E perché? E perché non è da galantuomini, scusate? Abbiate pazienza, è onestissimo. Siete ammogliato voi? Naturale, allora. Altrimenti perché vi prenderei? Perché mi prenderebbe? Qua stiamo facendo passi da gigante a ritroso, Giuseppe Sansone. Il film è un turco napoletano di Mattori, uno strepitoso Totò tratto da Scarpetta, e qui si entra in gioco con un altro argomento, cioè la visione che abbiamo dell'altro, dell'esotismo che attribuiamo all'altro, il cliché che sovrapponiamo sugli altri, su frammenti che non quello conosciamo. Quello della turcheria è un immaginario molto datato, lo prende Totò negli anni del dopoguerra, ma era molto indietro, un immaginario ottocentesco. Molto ambiguo, perché loro lo immaginano appunto eunuco e quindi gli affidano le mogli perché sono gelosissimi, in realtà lui è un erotomane e quindi corrisponde dall'altro cliché legato agli sceicchi, ai turchi, alle scimitarre, all'erotomania, insomma, medio orientale. Sabrina. Sì. Buongiorno, sì. Io volevo intervenire perché sono stata nello stesso posto, anche se non credo di essere stata nella stessa struttura dell'ascoltatrice precedente nel Kerala. Anche lei si è fatta ungere dalle ungitrici che poi pregano prima di mettere le mani addosso. Anche io mi sono fatta ungere, devo dire che è stato un viaggio magnifico con un'amica, quindi siamo andate due amiche senza nessuna sorta di aspettativa da questo viaggio, se non quello di andare in un posto lontano e magari di stare in compagnia per parlare, per poter fare un viaggio al femminile, diciamo così. Ci siamo fatte ungere, ma non era all'interno della struttura, quindi per poterci andare a fare ungere dovevamo fare un quarto d'ora, che non è moltissimo, di camminata. Beh, per una bella unzione però vale la pena, che è un quarto d'ora. L'estrema unzione. Certo, certo. Però in una non strada, quindi all'interno di una strada dissestata, in mezzo alle piante, stando attenta anche a non cadere. E finalmente arrivate nel paradiso dell'unzione. No, in un bugigattolino che sembrava un garage, diciamo, ristrutturato a forma di studiolo per questi massaggi, ma devo dire che l'accoglienza era talmente calorosa, silenziosa ma calorosa nelle mani, nel trasmettere il calore attraverso i sensi. Non sa cosa mi sembra singolare? Abbiante. Che uno sia obbligato ad andare in India per farsi dare una spalmata d'olio addosso come si deve. Però mi fa piacere perché sono due percorsi: la signora che va ai piani alti e trova le meravigliose massaggiatrici che sanno che colpisce la preghierina prima, il rituale, via dicendo, e la fanno felice. Lei con la sua amica vuole qualcosa di più rude, di più naif, e quindi con l'idea che sia qualcosa di più genuino, come quelli che vanno a mangiare nelle trattorie dove si cucina come una volta, e trova anche lì qualcuno che da voi quello che voi cercavate, una brutale ma meravigliosa e calda unzione promiscua dentro il garage, qualcosa del genere. ma in realtà poi tutto era questo, lo facevamo al mattino, poi dopo nel pomeriggio andavamo girando, prendevamo un tassì, abbiamo preso tutti i mezzi possibili immaginabili, quindi questa cosa del massaggio era soltanto relegata alle prime ore del mattino per poi affrontare invece un vero e proprio viaggio. Quindi io, più che l'esotico, anche perché parlando con le persone che facevano poi questi massaggi, si scopriva che erano persone che per arrivare lì in quel luogo facevano anche 4 ore di viaggio, si alzavano alle 5 del mattino per poter andare a lavorare lì. Beh, però forse anche per loro valeva la pena, che poi mettervi le mani addosso non era certo un'attività che facevano gratuitamente, quindi era il loro lavoro. Oggi sono tante cinesine in riva alle spiagge sulla Riviera Romagnola che fanno più o meno le stesse cose. Emiliano, chiudiamo con lei. Buongiorno. Io insomma, sono sposato con una filippina da più di 17 anni. Quindi lei il paradiso esotico se l'è portato in casa? Sì, ma io consideri che l'esotico secondo me non esiste, è la, diciamo, riuscire a andare in un luogo e vivere come vivono loro. Io ci riesco perché giustamente andando con mia moglie non faccio la vita da turista in quel posto, ma vado nei posti dove vivono loro, dove mangiano loro, vado a pescare con i fratelli di mia moglie nel modo in cui pescano loro. Si è infilippinito, insomma. Sì, ma secondo me è anche meglio, anche perché le Filippine rispetto alla Thailandia, no? Che sono un paese molto turistico, tutti questi standard turistici elevati, è diverso. Quindi, diciamo, si vive là, si mangia come loro, un macello, non si dorme mai, confusione dappertutto. Vabbè, penso che invece a casa sua sia tutt'altra cosa, con la moglie filippina in casa sarà un paradiso esotico ma anche un paradiso domestico, senza naturalmente quei grandi problemi che ci sono con le donne italiane che non sono più come le donne di una volta, ma questa è l'inizio di una nuova trasmissione. Grazie Giuseppe Sansonna, grazie Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111.